Cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Sono stato al mio funerale e ho imparato qualcosa sulla vita. Poche cose, ma quando sono tornato al mondo, facendone tesoro, ho campato meglio. Questo è l'incipit, direi molto molto incisivo, dell'ultimo libro di Gabriele Romagnoli, che è scrittore e anche giornalista, che si intitola Solo bagaglio a mano, pubblicato da Feltrinelli. Non è uno scherzo quello che tu fai, insomma, all'inizio di questo piccolo libretto, perché è un'esperienza che effettivamente tu hai fatto in Corea del Sud, dove si può sperimentare, insomma, la propria morte, o meglio il proprio funerale, eccetera, per poi naturalmente capire delle cose di sé e del senso della vita. Ci racconti come è avvenuta questa proprio sperimentazione? È accaduto 4 anni fa, quando io ho letto un breve articolo sul Financial Times dove si diceva che la più nota azienda elettronica coreana aveva questo problema, una messe di suicidi tra i propri dipendenti, per cui hanno chiesto a una società di consulenza come frenare questo fenomeno, e l'idea della società di consulenza è stata: vi facciamo passare attraverso il funerale così che imparerete ad apprezzare meglio la vita. Io ho scritto a questa società chiedendo se potevano fare vivere anche a me questa esperienza, e sono andato fino a questa piccola cittadina chiamata Nanju, dove ho sperimentato tutti i passaggi che venivano fatti vivere queste persone. Hanno fatto scrivere il testamento per nome di Candela, che già quella è un'esperienza curiosa, perché ci si rende conto che in realtà ci sono pochissime cose che vogliamo lasciare e pochissime persone a cui tu lo dici nel libro, perché nel momento in cui hai dovuto scrivere, diciamo, questo finto testamento, alla fine sia gli affetti che le cose materiali che a cui rilegato, ti sei reso conto che erano poche, per cui solo bagaglio a mano, perché ci portiamo dietro tantissime cose non necessarie, al punto che poi non vogliamo nemmeno lasciarcele alle spalle. E allo stesso modo gli affetti veri, gli amici che contano, le persone care, alla fine sono, per chi poi non ha famiglie numerose, poche. E poi c'è stato il momento, quello più importante, in cui in effetti vieni portato sottoterra e... Cioè vieni messo in una bara. Sì, più che in una bara la definirei cassa da morto, che è stata proprio della scatola di legno e a dimensione anche di medio coreano, che non è la mia statura. Sì, perché dici che tu, essendo alto, insomma, sì, ti sbattevano anche un po' i piedi. Esatto, e lì, dopo la formula rituale, dopo aver indossato il vestito senza tasche, perché da questo mondo si va come si è arrivati, quindi senza niente, e hanno calato questo coperchio, hanno battuto i chiodi. E ti hanno chiuso proprio dentro. Sì, mi hanno chiuso, e lì ho dimenticato la domanda fondamentale, che è quanto dura questo esperimento, per cui ho tentato di farla mentre calavano il coperchio, ma gli addetti non parlavano inglese, per cui si tu sono limitati. Tu eri alla cieca, cioè sei andato così. Ora, oggettivamente, al di là poi del libro che hai scritto, che ovviamente è venuto fuori da questa esperienza, perché tu racconti le tue riflessioni su fatti anche pubblici, ma poi anche racconti delle tue cose private, dei tuoi viaggi, dei posti dove hai vissuto, eccetera. Ma in quel momento in cui sei stato così chiuso in questa bara, a che cosa hai pensato? Ma in realtà quello che ho pensato è formazione di calciatori che iniziano con la B, o un cast di un film dove tutti gli attori cominciano per C, perché se in quel momento tu pensi veramente alle cose, il cor ti si spaura, direbbe il poeta, per cui bisogna distrarsi come quando fai la risonanza magnetica. E poi è quando esci, tutti quando siamo nel trauma non pensiamo a quello che c'era prima, quello che c'era dopo, perché pensiamo a uscirne vivi, pensiamo a come, e poi mettiamo le cose in prospettiva. La prima cosa che ho pensato uscendo è che probabilmente l'importanza della vita, l'importanza di quelle poche persone, in realtà sono cose a cui noi dovremmo arrivare seduti a tavola senza bisogno di farci seppellire in Corea. Così come tutti capiscono, dopo essere passati attraverso un incidente mortale, allora adesso voglio vivere ogni giorno come se fosse l'ultimo, ti do una notizia, ogni giorno è come se fosse l'ultimo. Però purtroppo noi siamo animali che hanno bisogno dell'addestramento, e quindi il trauma è l'addestramento più efficace e mettersi in condizione di sperimentare un trauma, già non bastassero quelli che ci capitano, però è un modo per arrivare a capire una volta per tutte, se se ne ha la forza, appunto, che sono poche le cose che contano e poche le persone, quindi basta il bagaglio a mano per contenerle. E noi siamo fortunati come lettori perché questa esperienza l'hai fatta tu, noi possiamo sottrarci dall'esperienza di essere sepolti vivi per alcuni minuti e diciamo trarne invece il significato, il senso che ne viene fuori. Una delle cose che mi ha colpito è che quando appunto hai fatto questa esperienza, loro in questa società proiettano questo video, questa slide, dove dicono quanti anni tu hai impiegato a fare cosa, no? Per esempio hai, diciamo, sprecato, hai utilizzato 23 anni per dormire, tot per mangiare, eccetera, e solo 46 ore di felicità. Sì. Tu ti ci ritrovi in questa... Lì è la parte più opinabile, perché data una vita media sicuramente è accettabile l'idea che ci siano 23 ore di sonno, 6 ore a mangiare, e io ho conteggiato almeno 2 settimane a spacchettare i CD o le salviette che ti danno i treni, per cui la vita è fatta di cose inutili. La felicità, secondo me, ricordo una pubblicità che sentivo da bambino di una marca di liquori che diceva: la felicità è un attimo, dividila con me. E allora io ho sempre pensato che in effetti la felicità sia quella scintilla che si accende e poi un attimo dopo si è già spenta. Allora, sommando questa serie di scintille, non si arriva a un numero importante nel corso di una vita, perché poi tutte le cose, come si dice, quando uno compra una macchina è contento quando la compra e quando la vende, fine. I 10 anni in cui la guida sono momenti normali, trascurabilissimi, insomma. In cui non, infatti, diciamo che la conclusione principe di questa tua esperienza è tutta nel titolo del libro, Solo bagaglio a mano, che chiaramente è un bagaglio emotivo, non solo un bagaglio fisico di quando si viaggia. Tu a un certo punto scrivi: se decidi di viaggiare leggero, ti devi dare delle regole, e le regole non complicano la vita, semmai l'opposto. Strana questa però affermazione, da te mi sarebbe... Cioè, tu hai vissuto in tanti posti del mondo, hai fatto il giornalista, hai raccontato tante storie, eppure le regole ti danno qualcosa di buono rispetto invece all'essere un po' fuori dagli standard. Ma io sono un anarchico regolato, nel senso che mi consento di scegliere lo stile di vita, mi consento la libertà, però poi non voglio invadere quella degli altri, quindi cerco, non accetto il sistema per quello che mi dà, cerco di creare un mio sistema, però rispetto delle vite altrui. Quindi questo significa semplificare, a fondo le regole sono una semplificazione della vita, no? Per questo poi tante persone ne sentono il bisogno di semplificazione, tante persone per esempio si convertono a religioni che semplificano la vita perché ti dicono come vestirti, cosa fare. Ecco, ma non è relegare la responsabilità, il senso della scelta a qualcun altro o a qualcos'altro? Assolutamente sì, però dipende da quante e quali regole accetti. Se le tue regole sono in funzione di consentire agli altri di avere lo stesso spazio che vuoi tu, non ci sono alcune limitazioni. Se tu invece rimetti la tua intera vita, questo non lo farei mai, è un principio supremo che fa altro fatica a comprendere, quello è proprio una dimissione totale dalla propria responsabilità esistenziale. C'è regola e regola, però un mondo senza regole... No, certo, non sarebbe... Poi io accetto, come dire, i due opposti, faccio sempre questo esempio. Il mio problema rispetto al vivere in Italia è questo: se tu vivi in Scandinavia, quando il semaforo è rosso, quando è verde, è verde. Se tu vivi, come io ho fatto, in Libano, il semaforo non c'è, passa quello che ha il Kalashnikov. Però lo sai, è una regola anche quella, no? Dici, vabbè, io ho la pistola, quella al Kalashnikov, passa lui. Il problema del vivere in Italia e in molti paesi mediterranei è che quando il semaforo è rosso c'è uno dietro che ti suona il clacson, devi passare; quando il semaforo è verde c'è uno che attraversa e vuole passare. E quando il peggio di tutto è avere una regola che poi non viene, sanzionata da alcuna legge, non viene rispettata da nessuno. Tu tra l'altro scrivi che fra i tuoi desideri, diciamo, di vita c'è quello di visitare 100 paesi, tu ne hai visitati già 73 se non erro. Da quando scritto sono arrivato a 74. Ah, sei arrivato a 74, bene. Quindi, ma perché ti sei posto questo obiettivo? Ma sono quelle cose, sai, che in America chiamano la bucket list, il secchio dei desideri, che a un certo punto, al solito, fanno quelli che, a cui viene dato un periodo di vita. Appunto, io siccome vivo ogni giorno come fosse l'ultimo, comunque... Insomma, non penso di essere immortale e devo riempire questo tempo con le cose a cui più tengo. Viaggiare per me è fondamentale. Un giorno mi sono messo a fare questo conteggio, visto a che numero è arrivato, e ho detto facciamo cifra tonda anche per darmi uno scopo nella vita. E poi mi sono messo una serie di regole, tipo devo dormire almeno due notti in ognuno di questi paesi per non barare con me stesso, regole appunto. Certo, certo. E considero paese quello che ha la nazionale di calcio, se no non è un vero. No, beh, anche sul concetto di paese ci sono molti, per il Regno Unito è un paese unico, sono quattro. Oppure c'è Scozia. C'è la nazionale scozzese, quindi andare a Edimburgo fa punteggio. Quindi ti vale due paesi se vai, sì, in Gran, sì, Bretagna come, sì, minimo. Quando ho iniziato a leggere questo libro mi è venuto in mente, perché tu giochi sul fatto appunto del bagaglio a mano, solo bagaglio a mano, sia fisico proprio quando viaggi, sia emotivo appunto di togliersi di tutte le cose poco importanti e di dar valore a quelle a cui veramente tieni, e io ho pensato al film di George Clooney, Tra le nuvole, però ho detto ma no, non gli farò mai questa domanda, sarà così banale, non avrà mica visto quel film Gabriele Romagnoli. Invece in un'intervista ho visto che effettivamente ti ha ispirato, lo ricordiamo brevemente, George Clooney viaggia, è un tagliatore di teste eccetera, e ha questa filosofia di portare addosso uno zainetto leggero, cioè di togliere appunto tutto ciò che è superfluo nella vita. E invece quel film ha colpito anche te. Quel film mi ha colpito, e come? Primo perché mentre parlavamo io ho estratto la tessera di grafite del viaggiatore seriale che lui, cioè, ha quella tu da... hai avuto tutti i viaggi che hai fatto. Ho pensato, questo personaggio mi assomiglia, e quando lui ha fatto questa conferenza che si intitolava Che cos'è nello zainetto, e mostrava che se nello zainetto mettete troppe preoccupazioni, troppi pesi, troppe aspettative, poi non riuscite a trasportarlo, ho pensato qualcuno dovrebbe davvero scrivere qualcosa del genere. E poi ho pensato, chi altro conosco che abbia la tessera di grafite, abbia viaggiato e abbia una concezione della vita altrettanto flessibile? E mi sono guardato allo specchio e quella persona ero io. Dopodiché io rispetto a lui ho fatto forse un passaggio ulteriore, nel senso di liberarsi di cose immateriali, perché insomma, lì l'elenco nel libro è abbastanza lungo e anche discutibile se vogliamo, perché non tutti sono disposti, per esempio trovo molte obiezioni a liberarsi dei ricordi. Ecco, quella è una cosa che mi ha colpito, liberarsi dei ricordi, cioè per te i ricordi sono un peso in realtà, che ti tengono ancorato, non lo so, non ti fanno vivere bene? Tutti sì, il problema è che tutti vogliamo tenere tutto, no? Le persone hanno una specie di feticismo della memoria. Sì, no? Per le, cui fotografie, le fotografie, i diari, i libri. Allora, l'esempio che faccio spesso è, c'è una coppia che ha questa scatola in cui, dalla quale estraggono questi memorabili incredibili, e uno ti fa vedere un biglietto di un cinema in cui sono stati una sera a Londra, all'uscita hanno visto i fuochi d'artificio, e lei mi ha detto per la prima volta ti amo. Allora, la mia domanda è, senza il biglietto ti dimenticheresti di una cosa del genere? Cioè, ne hai bisogno? E seconda domanda, la vostra relazione è una scatola di ricordi o una fabbrica di ricordi? Cioè, molto spesso i ricordi sono un modo per rivivere come se non fossimo in grado invece di vivere domani. Allora, io invece di pensare a quella sera con i fuochi d'artificio a Londra, penso a cosa possiamo fare domani perché sia altrettanto indimenticabile. Tu hai perfettamente ragione, però io ti confesso che ho la scatola dei ricordi anche con i biglietti, tipo, non so, del tram, di quando sono andata in gita scolastica a Parigi per la prima volta eccetera. Effettivamente è un modo di vivere delle emozioni passate e non pensare alle emozioni che potresti vivere, diciamo, nel presente. Non critico le scelte degli altri, espongo le mie. Io vivo così anche perché sono probabilmente anche una reazione al fatto che credo che una delle più grosse accumulatrici seriali sia mia madre. Ah, ecco, era la tua reazione. Mia madre, leggendo questo libro, ha detto: t'hanno scambiato nella culla. Ho detto: no, nella culla, ho cominciato a rivoltarmi. E a questo punto c'è stata una scena agghiacciante in cui mio padre ha estratto una cassetta degli attrezzi che tengono in casa, e all'interno c'era un ciuccio. E ho detto: ma era mio da piccolo? E mi ha detto: no. ma perché lo tieni? Così, perché non ci butta via niente. Un ciuccio di un bambino non meglio identificato, non so, magari arriva la vicina col suo bambino piccolo, si è dimenticato il ciuccio, le dai questo di un non sappiamo nemmeno di chi, e credo che, insomma, però non c'è un'esagerazione, chiunque, compreso, ci mancherebbe a mia madre, di accumulare. Io penso si vivrebbe meglio nell'altra maniera, però questa, come tutte, è un'opinione. Facciamo una breve pausa e poi continueremo ancora a chiacchierare con Gabriele Romagnoli. Formaggio Gran Moravia, l'unico con l'etichetta multimediale della filiera ecosostenibile. Vi presenta Il Cacciatore di Libri. In questo libro tu mescoli, diciamo, fatti anche di cronaca, personaggi, diciamo, noti, fatti che sono realmente accaduti, con le tue riflessioni, hai invece episodi proprio della tua vita, dei tuoi viaggi, delle tue sensazioni, delle tue emozioni. Perché hai voluto creare questo mix? Proprio perché avere viaggiato tanto, come ho fatto io, appunto, con 74 paesi, ma anche aver vissuto in 4 continenti e 8 nazioni, 8 città diverse, è, come dire, è un'esperienza che dà qualcosa se tu da ogni luogo, da ogni incontro cerchi di trarre qualcosa. Ecco, ma gli incontri determinanti e quelli che ti scatenano le riflessioni sulla vita possono essere col Dalai Lama piuttosto che con uno sconosciuto per strada. Allora, di qui il mix che va da questo ragazzo di Kigali che mi disse camminiamo in fretta perché i bersagli mobili sono più difficili da colpire, che tu non capisci perché si muovono così in fretta, questo, certo. mi regalò questa metafora, perché per lui era sfuggire ai cecchini, per me è la vita, che se tu rimani fermo prima o poi ti accoppa in qualche maniera. E il generale Custer, che, come dire, è tutta un'altra storia, però andando a Little Bighorn a vedere il luogo dove il settimo cavalleggeri fu massacrato, rileggendomi la storia, capendo che questo attaccava sempre alla stessa maniera, cioè se noi andiamo a Tenaglia con due formazioni li schiacciamo, solo che se voi siete 200 e gli altri 2000, come accade a Little Bighorn, addirittura riduci la tua potenza d'attacco 100 alla volta, è finita come sappiamo. E lì, rientrando dalla macchina e appoggiando il mio bagaglio a mano, ho visto una cosa che contraddice tutte le mie teorie, ma tutte le regole hanno bisogno di un'eccezione, se no che regole sarebbero? Ed è che quando io viaggio con il bagaglio a mano, in realtà mi porto la duffel bag, cioè la borsa ripiegabile, che si può aprire e diventare un contenitore di cose che non hai alla partenza, ma vuoi avere all'arrivo, e cioè il piano B, quello che Custer non aveva, cioè nel viaggio come nella vita, occorre avere un piano B, che è quello che ti evita anche la delusione, cioè la famosa sliding door, che è una delle cose che io vorrei evitare, che vorrei che tutti anche evitassero, perché noi passiamo la vita a dirci, ah no, io cosa avrei voluto essere un cantante, invece sono un ingegnere. Se invece tu ragioni, ok, piano A faccio il cantante, piano B faccio l'ingegnere, sono contento lo stesso, e magari scopri che da ingegnere sei un ingegnere apprezzato e ammirato, da cantante saresti stato mediocre magari. Sì, facevi 4 concerti in provincia, in balere improvvisate, il tuo nome sui cartelloni lo vedevi una volta. Allora, come si è capito, questo libro mi ha colpito particolarmente, mi ha coinvolto perché mi ha fatto riflettere su un sacco di cose, anche se non siamo d'accordo su tutto, perché su quella dei ricordi faccio un po' fatica, ma prometto che ci penserò e mediterò. C'è una frase in particolar modo che mi ha colpito. A un certo punto tu scrivi: io amo le persone, le città che mostrano i segni, le cicatrici, le protesi, quelle passate attraverso il fuoco purificatore della storia e scottate dall'esperienza, che abbiano imparato qualcosa oppure no, stanno lì nuovamente in piedi per insegnare qualcosa a noi. Sì, è una mia debolezza personale. Ognuno ha, quindi, sono quelli che rimangono sempre colpiti dagli occhi azzurri, quelli che rimangono colpiti dai grattacieli. Per me il segno identificativo che fa scattare l'affetto o comunque la vicinanza con le cose, le città, le persone, è quando vedo che queste sono passate attraverso il fuoco dell'esperienza e sono ancora lì, no? Cioè, io ho amato moltissimo Beirut, perché Beirut è la città che è stata distrutta, ricostruita, l'araba fenice di quella costa è stata distrutta tante volte, ogni volta si è rialzata, ogni volta diversa, ma in parte se stessa. Per esempio, io ho amato New York, ma non l'ho mai amata tanto quanto l'ho amata dopo l'11 settembre, cioè quando anche New York... Hai scritto anche un romanzo? Sì, sì, perché ma io addirittura ho comprato casa di fianco a Ground Zero e me ne sono accorto dopo, perché essendo Ground Zero ho scelto questo appartamento, poi quando sono uscito mi sono accorto di dove l'avevo scelto, proprio accanto alla ferita. Lo stesso... Le persone, anche perché poi io credo che le ferite prima o poi le abbiamo tutti, poi ci sono quelli che le dissimulano, vanno avanti, ma gliele leggi da qualche parte. Credo che poi le persone che hanno questa cosa, che è una scrittrice che io ho amato molto, che era Josephine Hart, chiamava il danno. Ma le persone che hanno il danno sono anche temibili, perché essendo sopravvissute al danno sanno perché che sanno di poter sopravvivere. Esatto, per cui sanno che se lo provocano a te tu sopravviverai. Come... Però c'è una sorta di immediata riconoscibilità e fratellanza anche nel modo di dissimularlo proprio, quindi non occorre avere la benda sull'occhio o avere una cicatrice. Le cicatrici più grosse sono quelle invisibili, perché sono quelle che cerchiamo di non mostrare agli altri, così come Beirut uno può passare e credere che non sia mai stata distrutta, che sia così, che sia nata così, come Rotterdam, che è un'altra città che paradossalmente io amo, perché tabula rasa è rinata da se stessa ed è una città assolutamente contemporanea. E credo sia una specie di, come dire, di club, di persone che si riconoscono, ma si riconoscono senza portare un distintivo, no? Come si riconoscevano i cristiani facendo un... Basta guardarsi negli occhi e insomma ci si capisce. Ci si capisce e si va avanti sapendo di avere un retroterra comune. Io mi rendo conto di aver sforato un po' in questa puntata del Cacciatore di Libri, ma avete capito che sono rimasta affascinata sia dal libro che dalle parole di Gabriele Romagnoli, Solo bagaglio a mano, pubblicato da Feltrinelli, perché è un libro piccolo, non sono neanche un centinaio di pagine, però che secondo me porta a riflettere su molti aspetti della vita, e soprattutto possiamo farlo senza avere il trauma di trovare appunto di essere seppelliti nella Corea del Sud come diciamo sprone per valutare veramente la vita. Il libro è Solo bagagli a mano, Gabriele Romagnoli, Feltrinelli. E dedichiamo quest'ultima parte del Cacciatore di Libri a tutti quei genitori di figli che iniziano ad avere a che fare quest'anno con il latino. Insomma, sono gioie e dolori, all'inizio soprattutto dolori, però c'è un libro che può aiutare questi ragazzi ad affrontare il latino in modo un po' più simpatico. È uscito un po' di tempo fa ed è la traduzione in latino del Diario di una schiappa. Diario di una schiappa è un libro sicuramente indicato per i ragazzini delle scuole medie, però anche già al primo anno del liceo possono sicuramente leggerlo, e poi quando è in latino insomma magari si divertono di più a leggere La Schiappa che non Cicerone. Allora, La Schiappa in latino si intitola Commentari de Inepto Puero ed è un'edizione speciale che è stata curata da Monsignor Daniel Gallagher, che è un latinista ed è anche tra l'altro il curatore del profilo Twitter di Papa Francesco. L'abbiamo incontrato un po' di tempo fa e ci siamo fatti dare anche qualche consiglio. Insomma, a chi è che può essere indirizzato questa schiappa in latino? Sentiamolo. Il pubblico ideale, secondo me, sono tutti quanti, ma specialmente i latinisti, oppure gli studenti o di scuola media, del liceo classico o scientifico, perché io l'ho tradotto in modo che c'è una frase per tutti quanti, le frasi sono molto semplici, anche frasi, per esempio abbiamo fatto proprio adesso con alcuni studenti la prima pagina, che mi sono reso conto che è pieno di punti grammatici, c'è una grammatica abbastanza raffinata e difficile, quindi a ciascuna delle pagine uno può trovare magari difficoltà, però con una copia in una lingua volgare come italiano o inglese in mano si può tradurre pian piano nella propria lingua. Ma è vero che c'è più entusiasmo per il latino in altri paesi che non in Italia? Purtroppo io credo che sia vero. Per esempio in Gran Bretagna, in America, in Germania soprattutto, però dovuto a una metodologia molto diversa, cioè più attiva, di costruire frasi, di parlare, ascoltare, non soltanto di leggere passivamente il latino. Se questo succede anche qui in Italia, c'è grande speranza, perché la base grammaticale c'è già, ma con una metodologia un po' secca, un po' magari antiquata, devo dire, però pian piano si sta riprendendo anche la capacità di tramandare la lingua in questo nuovo modo. Nei vari incontri che lei fa con i ragazzi, con gli studenti, immagino anche riceverà dei messaggi. Che sensazione ha avuto da questi ragazzi? Come stanno accogliendo appunto la schiappa in latino? Adesso c'è un'accoglienza molto calorosa dal fatto che loro leggono di solito questi testi classici, ma si rendono conto subito che ci sono espressioni che hanno già trovato nelle lettere di Cicerone, magari Livio, Virgilio pure, e questo mi fa molto molto piacere, a vedere questi collegamenti con la letteratura classica, un filo ininterrotto per i secoli di un'unica lingua, malgrado queste espressioni moderne come computer eccetera, che sono essenziali, però il modo di esprimere queste cose o esprimere i nostri sentimenti è rimasta sempre lo stesso. E a proposito di letteratura per ragazzi, vi segnalo che a Cagliari dall'8 al 12 ottobre ci sarà la 10ª edizione del festival Tutte storie di letteratura per ragazzi, sottotitolo Racconti, visioni e libri per guardare più in là. Tantissimi come sempre gli scrittori, naturalmente dedicati ai bambini e agli adolescenti. Trovate il programma su www.tuttestorie.it. Anche per oggi è tutto, grazie in regia a Valeria Bernardi. Vi ricordo che di queste e di tutte le puntate del Cacciatore di Libri trovate sempre il podcast su radio24.it. Per essere sempre aggiornati potete anche seguirmi su Twitter. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.